L'idea del mito del mercato globale, in realtà il titolo può essere anche un tantino fuorviante, nel senso che la cosa che uno si aspetta immediatamente è un libro sulla globalizzazione, che effettivamente è un tema che in questo periodo va abbastanza di moda. In realtà sicuramente il libro parla di questo aspetto della globalizzazione dei mercati, ma io mi riferisco principalmente alla globalizzazione di natura intensiva, cioè il fatto che il mercato sempre più, anche al di là dell'estendersi geografico, abbia compenetrato un po' tutti gli aspetti della nostra vita sociale, quindi la trasformazione in merce un po' dei diversi aspetti della vita quotidiana, la salute, l'istruzione, i trasporti, ogni cosa viene regolata dal mercato. E in questo modo io sostengo in questo libro la società perde il proprio diritto a discutere democraticamente dei criteri attraverso cui produrre e distribuire beni e servizi per soddisfare appunto questi bisogni, poiché tutto viene regolato dal mercato, il quale ha come unico parametro di riferimento la ricerca del profitto. Quindi quest'idea del mercato globale, volevo precisarlo subito, sicuramente riguarda anche la globalizzazione in senso estensivo geografico, ma quello che a mio avviso è più preoccupante oggigiorno è la sua estensione anche ai diversi aspetti della nostra vita quotidiana, anche in uno stesso contesto geografico. Nel libro io cerco di demistificare un po' alcune delle verità assolute che ci sono oggi imposte sia a livello accademico sia a livello dei principali organismi internazionali, che ci presentano il mercato come il contesto in cui ciascuno di noi è libero di esprimersi liberamente, quindi come un'arena di libertà da mettere in contrapposizione ad altri contesti in cui invece i rapporti sociali sono regolati da gerarchia e fatti di potere. In realtà io sostengo che il mercato stesso è un contesto che non può essere definito indipendentemente dalle relazioni di potere, che anzi il mercato è una rete di relazioni di potere, e che quindi questa contrapposizione che la vulgata economica tenta di proporre come mercato uguale libertà e tutto il resto uguale potere e gerarchia è in realtà una dicotomia che non esiste, e che al contrario, per poter vedere un po' meglio nei meccanismi di mercato è anche opportuno approfondire quali sono i rapporti di potere che si realizzano e che si esercitano all'interno del mercato. La politica economica italiana è una politica economica che non può discostarsi, dati gli accordi internazionali, dalla politica economica degli altri paesi dell'Unione Europea e dei centri capitalistici. Il pensiero liberista si è affermato non soltanto nella cultura dominante, nella cultura su cui si basano un po' tutti i rapporti sociali, ma si è affermato soprattutto a livello degli organismi internazionali, quindi attraverso le istituzioni internazionali europee, ad esempio, tutti i paesi che aderiscono all'Unione Economica e Monetaria hanno rinunciato ad uno degli strumenti forti della politica economica, che era la politica monetaria, la quale è stata delegata ad un organismo centralizzato privo di ogni legittimazione popolare, che è la Banca Centrale Europea, e parallelamente a questo sono stati introdotti una serie di vincoli particolarmente stringenti sull'altro strumento forte della politica economica, che è la politica fiscale. Attraverso il patto di stabilità e gli impegni che ciascun paese ha preso sul fronte della riduzione della spesa pubblica, soprattutto, in realtà l'impegno è sul rapporto deficit prodotto interno lordo, ma questo viene realizzato principalmente attraverso tagli alla spesa pubblica, chiaramente si sono imposte come direi come unico obiettivo delle politiche che in realtà sono di stampo chiaramente ultraliberista. E tutto questo, diciamo, lasciando anche da parte delle forze storicamente di sinistra e anche storicamente più critiche nei confronti della cultura del mercato, tutto questo si è realizzato senza nessun vero confronto e scontro ideologico, ma semplicemente come se fosse una ricetta inevitabile, e quindi proprio per questo considerata oggettivamente giusta e contro la quale in qualche modo non ha neanche senso combattere. Questa è un po' la sensazione che io ho di come i rapporti politici sono effettivamente anche la conseguenza di questa visione del mercato come unico regolatore dei rapporti sociali.